Ieri ho incontrato mia madre ed era in pena perché sa che ti vengo a cercare, sa che non penso che a te. Ieri ho incontrato mia madre e ha pianto un poco perché sa che non sono più suo, sa che ora vivo per te. Crede di avermi perduto per sempre, che non mi importi più niente di lei. Ora la vita del figlio che aveva la puoi guidare tu con un dito. Ieri ho incontrato mia madre ed era in pena perché sa che ti vengo a cercare, sa che non penso che a te. Mia madre e ha pianto un poco perché sa che non sono più suo, sa che ora vivo